campo di battaglia lascia morti. Campo di battaglia è dei più forti. E guarda, non c'è pianta, solo sangue. L'odore della rabbia e della calce. Le loro donne bagnano col pianto. Il letto degli eroi dei loro figli. La nube nera avvolge i loro sogni. Il giorno si fa notte fra quei corpi. Nel respiro del vento la tua voce mi assale. E il ricordo di un tempo che è passato. Mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. Battaglia lascia morti. Il campo di battaglia è dei più forti. Cadaveri e nugoli di mosche. Se lasciano feriti non importa. Faranno tante croci tutte bianche. Medaglie al valore e bei discorsi. Il primo a cominciare è sempre l'altro. Diranno che ha sparato solo in alto. Nel respiro del vento la tua voce mi assale. Il ricordo di un tempo che è passato. Mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. Cresceva il calicanto, e i bimbi qui correvano tra i campi. Parlavano di donne e di raccolte. Poi giunsero le bombe intelligenti. Nel respiro del vento la tua voce mi assale. Il ricordo di un tempo che è passato. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no. No, mia figlia non piangere, no.